TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nella notte, grave fatto di sangue a Monfalcone, dove un uomo si è tolto la vita dopo aver tentato di uccidere a coltellate una donna che viveva con lui, ritrovata ancora viva. Una fuga di monossido dovuta al malfunzionamento di una stufa a legna ha richiesto l'intervento a Sacile dei vigili del fuoco, in supporto al personale sanitario, allertato dai genitori di una bambina di 9 mesi che aveva accusato un malessere. La bora continua a soffiare forte anche oggi a Trieste, sul Golfo, con raffiche oltre i 100 km orari, mentre durante la mattinata è continuato il nevischio che ha attecchito sulla di piano carsico e non in centro città, e comunque allerta ghiaccio sulle strade. Numerose le manifestazioni del giorno dell'Epifania. Tra i riti previsti oggi a Cividale si è tenuta la solenne messa dello Spadone, a Gemona la messa del Tallero. Si rinnovano anche gli appuntamenti con i fuochi epifanici, tra questi grande attesa per il Pignerol Grant di Coia a Tarcento, acceso dal vecchio venerando. È morto a 85 anni Giampaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e per diversi anni procuratore capo di Udine. Nella sua carriera aveva anche ricoperto diversi ruoli nell'ambito della giustizia sportiva. In Serie C, la Triestina sconfitta dall'Alcione Milano per 2-1 allo Stadio Rocco. La Bardati rimangono ultimi in classifica a quota -2, sempre più lontani dalla salvezza. Prossimo impegno in trasferta a Lecco. 12:31 minuti e 31 secondi, questi titoli. Buongiorno e ancora buona Epifania da Giorgio Bearzi e Daniele Lettige, in studio a condurre insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 6 gennaio, edizione che purtroppo dobbiamo cominciare con una notizia di cronaca, perché nella notte c'è stato un grave fatto di sangue avvenuto a Monfalcone, in una palazzina di via Desenibus 8, dove un uomo di 76 anni, dopo aver tentato di uccidere a coltellate una 63enne che viveva con lui, ritrovata ancora in vita riversa sul pianerottolo, forse in un tentativo disperato di fuga, si è tagliato la gola procurandosi delle ferite che lo hanno portato alla morte dopo il ricovero in ospedale a Trieste. Anche la donna si trova a Catinara, dove è ricoverata in gravi condizioni. Non si conosce ancora il movente della tragedia, per il quale sta indagando la squadra mobile della Questura di Gorizia. Ulteriori particolari nelle prossime edizioni dei nostri giornali. Ancora cronaca, una fuga di monossido dovuta al malfunzionamento di una stufa a legna del tipo Stube ha richiesto l'intervento ieri sera a Sacile dei vigili del fuoco di Pordenone, in supporto al personale sanitario, che a sua volta era stato allertato dai genitori di una bambina di 9 mesi che aveva accusato un malessere. La coppia, preoccupata per le condizioni di salute della figlia, aveva rilevato in casa un'alta concentrazione di monossido di carbonio grazie a un dispositivo di sicurezza portatile e aveva immediatamente chiamato il 112. La squadra dei vigili del fuoco ha confermato con gli strumenti specifici la saturazione degli ambienti e ha provveduto a ventilare adeguatamente i locali, imponendo il divieto all'uso della stufa fino a che un tecnico abilitato non avrà effettuato i necessari controlli. E ora siamo alle condizioni del meteo. La bora continua a soffiare forte anche oggi a Trieste e sul Golfo, con raffiche oltre i 100 km orari, mentre durante la mattinata è continuato il nevischio che ha attecchito sull'altipiano carsico e non in centro città, mentre si sono imbiancati già da ieri i rioni sopra i 100 metri di quota. Non sono stati registrati fino a questo momento particolari disagi, ma permane sulle strade il forte rischio di gelate, con le temperature sotto lo zero previste per oggi. Chiusi anche tutti i giardini pubblici, come d'abitudine a Trieste quando soffia forte la bora, rimane attivo il piano di presalatura delle strade comunali e di quelle di competenza dell'ANAS sull'altipiano carsico. Le misure antighiaccio sono state messe a punto anche per quanto riguarda le scuole, mentre la protezione civile è in stato di allerta per poter intervenire nelle vie più piccole. E attualmente il cielo è coperto su tutta la regione. Queste sono le temperature registrate alle 11. A Trieste 1 grado e 5 decimi con vento da est-nord-est bora a 63 km orari, con raffiche che sono arrivate fino a 87 km orari. A Udine 2 gradi e 5 decimi, a Gorizia e Pordenone 2, a Tolmezzo 1, a Piancavallo e Forni di Sopra meno 2 gradi e 5 decimi, a Tarvisio meno 5, a Sappada meno 6, sul Monte Zoncolan meno 9, sul Monte Lussari meno 11. Sulla costa a Grado 2 gradi e 5 decimi, a Lignano 1 grado. E queste le previsioni dell'ARPA. Oggi cielo in prevalenza coperto, con possibili deboli nevicate sparse sulle zone orientali, anche moderate su Carso e a Trieste. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora sostenuta forte a Trieste, con raffiche intorno ai 100 km orari. E oggi, giornata dell'Epifania, sono numerose le manifestazioni e gli antichi riti che, come da tradizione, si tengono in regione per celebrare questa festività. Cominciamo con la solenne messa detta dello Spadone, uno dei riti liturgici più singolari e suggestivi che la Chiesa ha conservato e che si è tenuta questa mattina a Cividale, nella Basilica di Santa Maria Assunta. A seguire, la rievocazione storica in costume dell'entrata del patriarca Marquando von Randeck, avvenuta a Cividale nel 1366. Nel pomeriggio il programma prevede animazioni medievali in onore delle investiture, musica medievale, duelli di armeggio, mangiafuoco e giullarate, e poi le rullate dei tamburi medievali e lo spettacolo Nuove Fiamme. Ma sentiamo l'intervista al parroco di Cividale, Don Livio Carlin, che ha officiato la Santa Messa. Innanzitutto mi ha ispirato un po' il messaggio di Papa Leone per la Giornata Mondiale della Pace, dove ci invita a perseguire la strada del disarmo e del disarmarci e del lasciare da parte ogni forma di violenza per aprirci invece al dialogo tra le persone. È la realtà unica che noi possiamo percorrere, cercando di far sì che le parole di Cristo, che sono disarmanti tante volte per noi, perché è un messaggio di bontà, di misericordia e di amore, possano diventare realtà tra le persone e possono diventare realtà anche di fronte a questi nuovi messia che noi abbiamo nel mondo e che pensano di avere la verità e di salvare il mondo, ma in realtà creano solo conflitti e difficoltà per gli uomini e le donne di vivere e di stare insieme. Cividale del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel Duomo di Gemona si è invece rinnovata la Messa del Tallero, una manifestazione antichissima che rievoca la consegna del tallero, antica moneta d'argento coniata nel 1500, usata come moneta corrente. Quest'anno a celebrare la Santa Messa è stato l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba. Gemona rinnova una delle sue tradizioni più suggestive e cariche di significato con la solenne Messa del Tallero, un rito che intreccia fede, memoria storica e identità comunitaria. Le origini della celebrazione risalgono all'età moderna, quando il tallero era una moneta di grande valore e veniva offerto dalle autorità del tempo alla Chiesa, assumendo un significato concreto di sostegno e di voto. Rito che si è ripetuto anche questa mattina nel Duomo di Santa Maria Assunta, gremito di fedeli, dove il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ha donato il tallero d'argento all'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, un gesto simbolico che rappresenta il legame tra il potere civile e quello religioso e anche un atto di ringraziamento e di affidamento alla protezione divina. Nell'omelia il presule ha voluto sottolineare come il messaggio dell'Epifania è la manifestazione di Gesù Cristo a tutte le genti. È Lui la luce del mondo, è Lui che può dare senso alla vita di ciascuno di noi in un momento così difficile ed oscuro del mondo. L'augurio, ha concluso Lamba, è che chi governa il mondo possa essere illuminato dalla luce di Gesù Cristo e persegua dialoghi di pace. Una cerimonia accompagnata da una liturgia solenne capace di raccontare Gemona attraverso i suoi riti in una terra dove la storia ha messo alla dura prova le comunità con il terremoto del 1976. A 50 anni da quella terribile tragedia che ha segnato drammaticamente la cittadina friulana, questo rito storico è diventato anche un modo per riaffermare la forza della memoria e la volontà di ricostruzione, con l'importanza di custodire le tradizioni come parte viva del futuro di Gemona. Gemona, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E dopo quelli andati in scena già ieri, oggi, come da tradizione, saranno accesi i fuochi epifanici diffusi un po' in tutta la regione. Quello più importante del Friuli orientale, il Pignarol Grant di Coia a Tarcento, verrà acceso alle 19 dal nuovo vecchio venerando Andrea Maroè, scelto per l'importante incarico meno di un mese fa, che in base al fumo del falò formulerà gli auspici per l'anno appena iniziato. Prima, alle 17.30, è prevista la tradizionale rievocazione storica per le vie della cittadina pedemontana. E il predecessore di Maroè, l'ex vecchio venerando Giordano Marsiglio, accenderà invece il Pignarul Piciul alla Casa per Anziani di Cividale, leggendo il responso dei fumi della pira all'accensione al termine della messa delle 16. Appunto, Pignarui, Cabosse, Foghere, sono tanti i nomi che vengono dati ai fuochi epifanici che tra ieri e oggi forniscono i loro auspici per il nuovo anno. Tra questi, la preparazione delle cataste nella bisiacaria, dove l'antico rito si chiama Seima. Sono le fascine degli stocchi del mais a comporre la seima di Pieris a San Canzian di Sonzo. La raccolta e i festeggiamenti da quasi 50 anni sono curati dalla famiglia De Vidè con il supporto degli agricoltori locali. La nostra si chiama Sema della Barca perché in questa zona c'era la strada che portava nell'Isonzo e lì c'erano le barche che trasportavano le persone e i carri di là dell'altra parte, nella provincia di Udine. Quest'anno tutta la nostra raccolta fondi andrà all'associazione Dinamici di Monfalcone che si occupa di neuropsichiatria infantile. A Turriaco invece il falò viene allestito vicino al parco dell'Isonzo dagli amici del circolo culturale Don Eugenio Brandl. Mentre in tutti gli altri paesi della Bisiaccaria questi fuochi epifanici sono chiamati la Seima, qui a Turriaco lo abbiamo sempre chiamato il Seimo, al maschile, perché tutti questi fuochi si rifanno alle tradizioni celtiche, dove vengono chiamati Samain. Quindi, essendo il fuoco elemento maschile, forte, vigoroso, fiammante, l'abbiamo sempre chiamato il Seimo. Così grande da farsi vedere fin dalla piazza, la Seima di Vermegliano a Ronchi dei Legionari porta a salire la cosiddetta Serpentina in Monte, dove il circolo ricreativo della Protezione Civile ha allestito un vero campo base. Qui in questa area, fin dal secolo scorso, avvenivano dei fuochi epifanici fatti dai pastori che a quel tempo lavoravano in questa area. I pini della Seima sono i pini invenduti degli alberi di Natale che gentilmente un vivaio ce li ha ceduti. Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E nella giornata dell'Epifania sono molti gli eventi di intrattenimento previsti in tutta la regione, a partire dall'ormai classico appuntamento alla Grotta Gigante di Sgonico, che attende grandi e piccini per festeggiare l'arrivo della Befana, che sulle note della banda Le Solite Leggere scenderà nel ventre della terra, accompagnata da tanti altri spericolati compagni, per donare a tutti caramelle e dolcetti. Ingresso dal centro visite della Grotta Gigante, apertura dei cancelli alle 14, con inizio dello spettacolo tra le 14.30 e le 15. E anche a Tolmezzo la Vecchina sulla Scopa farà la sua apparizione in piazza Centa, calandosi dal campanile del Duomo, appuntamento alle 15. In occasione dell'Epifania il Vespa Club Trieste ha riproposto dopo qualche anno un evento storico, la Befana del Vigile, iniziativa che prevede la raccolta di beni di genere alimentare da consegnare al convento dei Cappuccini di Montuzza dopo un breve giro per le vie della città. Vespe e lambrette si sono incontrate all'altezza del giardino pubblico per poi assieme consegnare i beni raccolti a un vigile urbano in costume storico presente all'incrocio dei portici di Chiozza. A seguire il corteo si è spostato poi verso il convento. E anche il Club Amici della Topolino di Trieste ha organizzato una giornata di solidarietà nel nome della Befana, dedicata ai bambini meno fortunati del quartiere di Valmaura. I soci, con le loro vetture d'epoca, si sono riuniti al mattino al Bar Lumière di Via Flavia, prima di partire in corteo con soste negli esercizi commerciali che hanno aderito a una raccolta di doni, che poi sono stati consegnati ai più piccoli alla chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata. E a causa del maltempo è stata sospesa a Trieste la tradizionale cerimonia del lancio in mare della croce, organizzata ogni anno dalla comunità greco-ortodossa sul Molo Audace dopo la processione dei fedeli della chiesa di San Nicolò al termine della funzione religiosa. E l'Epifania vuol dire anche sciate in montagna. Andiamo sulle vette del Friuli a vedere come sta andando. La gente in pista nell'ultimo giorno di queste lunghe feste natalizie, il meteo è quello che è, la neve è esclusivamente artificiale, ma sullo Zoncolan, la montagna dei friulani, la più vicina a casa, gli sciatori non mancano. Chi è venuto in giornata, chi ha la casa in montagna, ma anche turisti da Slovenia, Croazia e Polonia, segmento quest'ultimo che assieme ai turisti della Repubblica Ceca e Slovacca animeranno le prossime settimane, quelle della bassa stagione. L'alta, grazie anche al bel tempo, è andata bene, nonostante il Promoturismo non abbia ancora diramato dati ufficiali in linea con gli scorsi anni, come confermano anche i maestri di sci impegnati non solo con i bambini ma anche con tanti adulti alle prime armi. Il tutto in attesa della neve naturale, prima però arriverà il grande freddo con temperature abbondantemente sotto zero, poi forse copiose nevicate. Intanto 25 le piste aperte su 32, tra cui tutte quelle dedicate ai principianti e la discesa a valle fino a Ravascletto grazie al lavoro di cannoni e gatti. Sutrio, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È morto stamani a 85 anni Giampaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e procuratore capo di Udine dal 1989 al 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari incarichi, tra cui quello di difensore civico regionale. Tosel era un grande appassionato di calcio e ha ricoperto diversi ruoli anche nell'ambito della giustizia sportiva. È stato prima collaboratore all'ufficio inchieste della Federazione Italiana Gioco Calcio, poi alla disciplinare. Infine nel 2007 è stato nominato dalla Lega di Serie A giudice sportivo, un incarico svolto da Tosel fino alla fine del 2016. Restiamo al calcio. In Serie C la Triestina è stata sconfitta dall'Alcione Milano per 2-1 allo Stadio Rocco. Alla Bardati, sempre più lontani dalla salvezza, in attesa del prossimo impegno in trasferta a Lecco. Primo tempo molto combattuto nel gelo del Rocco. La Triestina in proiezione offensiva costante, anche se senza chiare occasioni da rete. L'episodio più importante al 37esimo, quando Moretti viene agganciato in area da Bertolotti. L'arbitro assegna il rigore alla Triestina, ma cambia idea dopo il controllo al VAR. Brutto invece l'inizio della ripresa per gli alabardati. Dopo solo 2 minuti l'Alcione passa in vantaggio. Cross dalla destra di Lopez e Marconi trova l'angolo sul secondo palo. L'Unione reagisce subito, ma D'Urso si vede negato il pari da una scivolata sulla linea di porta di Pirola. Poco dopo il quarto d'ora gli ospiti raddoppiano con Pitù, che approfitta di un'incertezza di Matoscevic per segnare a porta sguarnita. A un quarto d'ora dal termine, Ionizza, alla sua ultima presenza in alabardato prima di trasferirsi all'Arezzo, suona la riscossa per i locali con un gran gol dal limite. Fino all'ultimo dei 5 minuti di recupero la squadra di Tesser prova a pareggiare, andandoci vicino ancora con Ionizza, che fallisce l'occasione del pari a tu per tu con il portiere. La salvezza è sempre più una chimera. Gli alabardati restano ultimi in classifica, -2. Prossimo impegno domenica in trasferta a Lecco. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il basket, oggi alle 18, la Pallacanestro Trieste, dopo la sconfitta di domenica a Trento in campionato, sarà impegnata in trasferta in Ungheria nella sfida di andata dei play-in della Champions League contro lo Zoinocchi. E alla vigilia dei campionati europei, che si svolgeranno dal 15 gennaio in Danimarca, Norvegia e Svezia, la nazionale maschile di pallamano è a Trieste, che ha scelto come sede del proprio raduno. Gli azzurri, allenati dal tedesco Bob Hanning, sfideranno questa sera in amichevole la Romania in un palacchiarbola tutto esaurito, inizio del match alle 18. E oggi è l'ultimo giorno per aderire all'iniziativa A Natale Regalati un anno di musei, che permette di acquistare la tessera annuale dei civici musei di Trieste al prezzo scontato di 15 euro. L'abbonamento vale 12 mesi e dà la possibilità di accedere illimitatamente ai musei Revoltella, De Enriquez, di storia naturale, del teatro e al Castello di San Giusto. E proprio il Castello di San Giusto, nell'anno che si è chiuso, ha avuto oltre 150.000 visite, merito anche delle mostre temporanee. Tra queste, una che ci riporta indietro nel 1600 e si intitola Valvasor in Istria. Nessuna strada è mai stata troppo lunga, nessun pericolo troppo grande, se solo a una persona curiosa posso trasmettere la mia esperienza. Sono le parole di Johannes Wijkaard Valvasor, uno dei grandi eruditi europei dalla vita avventurosa, nato a Lubiana nel 1641, diventato membro della Royal Society di Londra nel 1687. A una parte della sua opera enciclopedica è dedicata la mostra al Castello di San Giusto, curata dal Museo Storico e Navale dell'Istria e coordinata nella sua versione triestina dalla conservatrice del Museo del Castello di San Giusto, Anna Krekic. È dedicata a un'opera monumentale che è La gloria del Ducato di Carniola di Valvasor, pubblicata nel 1689 in 3 o 4 volumi a seconda dell'edizione, e dedicata alla descrizione puntuale del Ducato di Carniola, quindi antica provincia austriaca che corrispondeva all'attuale Slovenia e a parti dell'Istria croata, e l'opera descrive minuziosamente la storia, il folklore, le tradizioni, la geografia, le bellezze naturali di questo territorio. Nella pubblicazione ci sono numerose calcografie, quindi incisioni su rame, che rappresentano i vari luoghi visitati dal Valvasor e da lui descritti. Fra questi c'è anche Trieste, effettivamente, che Valvasor considera in qualche modo all'interno del Ducato di Carniola, anche se non ne faceva parte. Lui riteneva ne avesse fatto parte in passato e quindi la inserisce all'interno della descrizione. situazione. La stampa che rappresenta Trieste è particolarmente interessante perché rappresenta una Trieste subito prima della grande espansione sette-ottocentesca. Ci porta appunto nel 1600 dell'Istria, ci racconta di una Volosco dove si catturavano tonni, ci racconta di Duino dove si faceva un buonissimo vino, e una caratteristica di questa mostra sono anche le didascalie, che sono una sintesi di questo libro. Le didascalie che accompagnano le riproduzioni delle stampe con i paesaggi istriani, gli scritti originali di Valva sono naturalmente degli estratti che sono stati riportati nell'originale tedesco e tradotti in tre lingue, italiano, inglese e sloveno. E sono molto interessanti da leggere perché contengono molti aneddoti e molti dettagli che ci permettono di capire meglio quello che stiamo osservando. E tra gli aneddoti c'è anche quello di un caso di vampirismo. Sì, uno degli aneddoti che racconta Valvasor è proprio quello riguardante il vampiro Jure Grando e la sua incredibile storia, alla quale è dedicato anche un piccolo film in stop motion che si può vedere all'interno della mostra. Mostra che rimarrà aperta fino a quando? La mostra doveva chiudere l'11 gennaio, ma visto che ha avuto particolare successo e ha suscitato molto interesse, abbiamo deciso di prorogarla di circa un mese, chiudendola l'8 febbraio, che è la giornata della cultura slovena. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. E prima di chiudere, qualche altro appuntamento di quest'oggi: acrobazie, comicità e ritmo soul per la giornata della Befana con Let's Twist Again, lo spettacolo di circo teatro dei Black Blues Brothers, cinque straordinari acrobati kenioti che debuttano in regione dopo un tour mondiale, alle 18 al Palamostre di Udine. Termina oggi con il gran finale a Sacile il premio violinistico internazionale Franco Gulli, giunto alla seconda edizione e che ha richiamato oltre 60 giovani talenti da tutto il mondo. Il concerto conclusivo con l'orchestra La Serenissima, diretta da Mario Zanetta, inizierà alle 20:30 al Teatro Zancanaro. L'attività di Jazz Insieme inizia il 2026 con un appuntamento all'insegna della grande musica Pepper Legacy, The Music of Art Pepper Century Tour, un concerto evento per celebrare il centenario di uno dei protagonisti più intensi e innovativi del jazz moderno, alle 18 al Capitol di Pordenone. Respighi, Sousa, Ray Charles, Van der Rost sono gli autori delle musiche proposte quest'anno nel tradizionale concerto dell'Epifania che apre la stagione 2026 dell'Orchestra Fiati Città di Muggia alle 17:30 al Teatro Verdi. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettig e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Grazie dell'attenzione e a tutti un augurio di buona Epifania. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.